Cina quando il virus diventa politico. Oggi a nessun luogo geopolitica delle epidemie. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Growing concern about a mysterious deadly virus as thousands of travelers from China are screened at American airports. Ebola virus disease is not just a disease of individuals, it's a disease of healthcare systems. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Vi ricordo che anche quest'oggi a confezionare la puntata ci sono con me Antonio Talia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani che è in regia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp per commentare o porre domande sul tema che è al centro della puntata di quest'oggi. Lo ricordo, potete farlo anche attraverso i social Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Lì trovate anche la diretta video di questa trasmissione. Poi Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Dicevo, oggi a Nessun Luogo Lontano cercheremo di analizzare come un virus, magari all'inizio sconosciuto, non immediatamente identificato, possa produrre effetti a livello non soltanto locale ma internazionale. Racconteremo come i rischi, attenzione, dobbiamo usare anche il condizionale, in tanti casi i rischi del contagio possono far chiudere aeroporti, far scendere le borse, mobilitare le ONG, attivare protocolli di emergenza. Il virus può allarmare le persone, scatenare panico, impattare sulle società, sui trasporti, sulle finanze, insomma cambiare persino abitudini, usi e costumi. E alla fine, anche quando l'emergenza è passata, gli effetti e l'eredità dell'epidemia sono ancora lì ben visibili. In ultima istanza, alcune epidemie possono essere molto più virulente di quello che clinicamente e dal punto di vista del bilancio dei morti in realtà sono. E se alcune epidemie ridisegnassero gli scenari internazionali? Questa è la domanda al cuore di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma come sempre, anche quest'oggi andiamo a misurare la temperatura. Il nostro termometro internazionale, lo ricordo, sono le notizie che catalizzano la nostra attenzione, sono dossier che seguiamo ormai da settimane, da mesi, che potranno diventare approfondimenti veri e propri qui a Nessun Luogo Lontano. Libano, ce ne siamo occupati parecchio, continuano le proteste, quello che c'è di nuovo è un segnale, innanzitutto dal punto di vista lessicale, perché il nuovo premier, ricordate, dopo le dimissioni di Hariri, dopo settimane e settimane di proteste da parte della società civile libanese, dicevo, il nuovo premier Hassan Diab ha parlato oggi di fronte al Parlamento e al governo. Siamo di fronte a un punto morto finanziario, economico e sociale, così ha fotografato il paese medio orientale il suo nuovo leader, e ha anche aggiunto: stiamo affrontando un disastro, dobbiamo alleviare l'impatto e le ripercussioni di questo disastro sui libanesi. In buona sostanza, almeno dal punto di vista del linguaggio, una presa di coscienza apparente che arriva tardiva, secondo i manifestanti, di quella che è la situazione non solo economica ma anche sociale del Libano. Una presa di coscienza, una presa d'atto che forse la politica libanese ha bisogno di una marcia in più. Vedremo se il nuovo premier Hassan Diab, lo ricordo, è un giurista 61enne, saprà dare corpo anche a queste parole che per il momento sono suonate inusitate nello scenario politico libanese. Super scoop del Guardian. Il quotidiano britannico ha infatti ha tirato fuori un coniglio dal cilindro. Scusate se uso una metafora forse un po' inappropriata per il mondo giornalistico, ma è uno scoop che sta sconvolgendo l'elite globale e proietta di nuovo un attore internazionale di cui spesso abbiamo parlato, l'Arabia Saudita, sul banco degli imputati. Che cosa è successo? Beh, il Guardian ha ottenuto delle informazioni che proverebbero come un anno e mezzo fa, tramite una conversazione WhatsApp, il reggente, il principe reggente Mohammed bin Salman, parlando con Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, il proprietario di Amazon e fra l'altro anche del Washington Post, prestigioso quotidiano statunitense, insomma, durante questa chat via WhatsApp avrebbe inoltrato un malware, sostanzialmente un virus, che sarebbe riuscito a infiltrarsi nel telefonino di Bezos e anche a carpire un notevole numero di informazioni. Secondo il Guardian, i sauditi ottengono le forniture di questi software spia, in particolare da due aziende, una è israeliana, l'altra sarebbe italiana, da un lato l'NSO, dall'altro l'Hacker Team. Dobbiamo sempre usare il condizionale, il presunto hackeraggio di questo telefono però sta creando, come potete immaginare, una tempesta internazionale, tanto che gli inviati speciali dell'ONU stanno annunciando che riferiranno particolari nelle prossime ore e noi naturalmente saremo qui a seguirli e a riferirli. Va ricordato che questa nuova tempesta che si sta abbattendo, pare, sul principe reggente arriva, quantomeno l'inizio, è datato 6 mesi prima dell'omicidio di Khashoggi, giornalista che lavorava per il Washington Post nell'ambasciata saudita in Turchia. Ci spostiamo, andiamo in Venezuela, America Latina, perché secondo l'Assemblea Nazionale, Ismael León, che è un deputato dell'opposizione, sarebbe stato rapito dalle forze speciali bolivariane. Tutto questo mentre Juan Guaidó, lo ricordiamo, presidente riconosciuto da almeno 50 paesi a livello internazionale, e mentre dall'altra parte abbiamo Nicolás Maduro, che gode del supporto soprattutto delle forze armate, dicevo, mentre Guaidó era in un tour europeo per cercare di consolidare la sua posizione a livello internazionale, in particolare si trovava in Gran Bretagna. Nelle stesse ore alcuni agenti delle forze di sicurezza venezuelane completamente vestiti in nero sarebbero entrati per l'ennesima volta negli uffici di Guaidó. C'era timore che potessero piazzare o delle microspie o addirittura delle prove contro Guaidó. Questo per darvi conto del fatto che la tensione nell'importante paese ancora è ben lungi dal dissolversi. Poi andiamo in Libia perché è ripreso il traffico all'aeroporto di Tripoli. Solo poche ore fa era stato chiuso per alcune ore dopo l'arrivo di 6 missili Grad che erano piovuti appunto sull'aeroporto stesso e l'autorità aveva dovuto chiudere il traffico aereo. Per il momento è ripreso ancora una volta la riprova del cessate il fuoco che assolutamente non tiene, forse dovremmo dire non è mai iniziato. L'ultimissima notizia del termometro internazionale invece vi porto in Africa, in Ruanda, perché c'è una mossa non del tutto a sorpresa, era preannunciata da una precedente dichiarazione politica del 2018. Il presidente Paul Kagame ha sostanzialmente detto, mentre era in visita in Gran Bretagna, che tra pochissimo 95 paesi potranno mandare i loro cittadini fino in Ruanda senza bisogno del visto, quindi libera circolazione delle persone per un Ruanda che per molto tempo è stato definito la Svizzera africana, poi travolta dagli scandali per aver truccato i bilanci pubblici, ma insomma Kagame cerca di dare un nuovo impulso a quello che sostanzialmente lui vuole arrivare a ottenere, cioè un panafricanismo almeno economico, l'African Continental Free Trade Area, che vorrebbe sostanzialmente creare un mercato africano molto molto più solido e agevolare anche gli spostamenti dei cittadini all'interno del continente. Arrivano tantissimi messaggi al 349-238-6666 per ciò che riguarda il virus e allora adesso andiamo al cuore di questa puntata. More than 400 people have been infected with the coronavirus and 9 people have died. The new virus has spread from Wuhan to several Chinese provinces, as well as the US, Thailand, South Korea, Japan, Taiwan, and we now have Hong Kong. Questo è uno delle tante aperture dei telegiornali internazionali. La notizia è montata nelle ultime ore, è previsto a brevissimo, nelle prossime ore, una riunione straordinaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con conseguente conferenza stampa. Vedremo che cosa accadrà. Peraltro si sta aggiornando anche il numero dei decessi e tra pochissimo vi darò il numero più preciso. E Non mi resta che però intanto dare il benvenuto, ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano, a Emanuele Capobianco, che è il direttore di Salute e Cura della Federazione Internazionale della Croce Rossa. Dottor Capobianco, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano. Buongiorno a voi. Allora, oggi anticipavo questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano. Il nostro tentativo è di cercare di capire come un'epidemia, una potenziale epidemia, e la storia recente ce ne ha consegnate alcune, possa impattare sulle relazioni internazionali, possa andare a colpire le società locali, ma anche, come dire, a ridisegnare lo scenario politico internazionale. Al di là del fatto che adesso ancora non sappiamo tantissimo su questo nuovo virus e non entriamo nel campo più strettamente medico, evidentemente. Se partiamo dalla SARS 2002-2003, dalla crisi Ebola, quella prima dell'Africa occidentale 2014, quella più recente del Congo, tuttora in corso, che cosa ci hanno insegnato queste epidemie? Innanzitutto che le epidemie sono parte della realtà umana da sempre, ma che stanno diventando sempre più ricorrenti in un mondo globalizzato dove vivono ormai 7 miliardi di persone, dove tutti siamo connessi in ogni parte del mondo attraverso aerei, dove la sempre maggiore contiguità con animali favorisce il salto di virus da specie animali alla specie umana. Quindi sta aumentando il rischio di queste epidemie e sta aumentando anche la velocità di trasmissione. Abbiamo anche imparato che le epidemie costano caro in termini di vite umane, ma soprattutto in termini di costi economici per non solo i paesi che ne sono affetti, ma anche i paesi limitrofi, perché le epidemie hanno un fortissimo impatto su quelle che sono il turismo, i consumi interni, le persone che vanno ai ristoranti, ai teatri, al cinema e nel commercio internazionale dei beni. Abbiamo imparato che prevenire è meglio che curare, che visti gli enormi costi umani ed economici, investire nella preparazione tecnica, finanziaria e di comunicazione alle epidemie è assolutamente importante. Ultime due cose, il multilateralismo e la collaborazione internazionale è cruciale per prevenire epidemie e per mitigare i rischi di epidemie quando cominciano a circolare, e questa collaborazione è assolutamente centrale. Ed è una collaborazione tecnica, una collaborazione politica che deve basarsi sulla massima trasparenza nei confronti dell'epidemia e delle informazioni che sono disponibili. Ultima cosa, le epidemie sono epidemie di virus, sono epidemie di batteri, ma sono anche epidemie di paura. E quindi quando si risponde a un'epidemia, il panico è uno dei problemi maggiori, a volte più grande, del virus e dell'epidemia stessa. La voce che sentite è quella di Emanuele Capobianco, il direttore della sezione Salute e Cura della Federazione Internazionale di Croce Rossa. Molto spesso in prima linea lo stesso dottor Capobianco su grandi epidemie e grandi crisi. Non è questo per il momento il caso, ma ha fatto bene il dottor Capobianco a sottolineare l'aspetto psicologico del panico. Così rispondo anche ad alcuni ascoltatori che chiedono: la consueta influenza annuale produce fino a 500.000 di morti l'anno al mondo. Io questa statistica non riesco a confermarla, chiedo venia e dico la verità. Perché mai montare un caso per questi pochi casi? Così un ascoltatore Nicola, ma così come altri ascoltatori che poi, come dire, introducono altri temi, ma poi ci arrivo. Emanuele Capobianco, qua c'è un punto: il caso si sta montando perché ancora non sappiamo esattamente con cosa abbiamo a che fare, giusto? Esattamente, noi sappiamo che questo è un virus nuovo, è un virus nuovo il cui comportamento deve essere studiato. Non sappiamo l'origine, da quale animale sia passato. Abbiamo scoperto solo negli ultimi 2-3 giorni che esiste trasmissione da uomo a uomo, quindi non solo più trasmissione dall'animale alla persona. Non sappiamo quanto è il tempo di incubazione, non sappiamo quanto severa è la malattia, non abbiamo ancora un'indicazione precisa su quello che sia il tasso di mortalità, che varia. Se noi guardiamo alla SARS nel 2003, era attorno al 15% dei casi, con quella la MERS del 2012 era il 35%. Queste sono informazioni importanti che non sono chiare all'inizio di un'epidemia, ma che diventano chiare nel tempo. Chiarissimo. In aggiunta, i coronavirus sono dei virus che possono mutare e quindi queste mutazioni sono particolarmente pericolose, perché possono aumentare sia l'infettività e quindi il rischio di trasmissione, sia la severità della malattia stessa. Chiarissimo. Emanuele Capobianco, lo ricordo, direttore Salute Cura, Federazione Internazionale di Croce Rossa, la più grande organizzazione internazionale che molto spesso si è trovata in prima linea a combattere epidemie di ben altro calibro. E così cerchiamo di fugare. Ci sono un po' di messaggi, dottor Capobianco. Per esempio, un ascoltatore dice: devo andare in Thailandia il 13 febbraio, farò scalo 15 ore a Shanghai. Secondo voi rischio qualcosa? Ci sono alcuni messaggi di questo tenore. Cosa si sente di dire nella sua veste, da un lato scientifica, dall'altra di quella di coordinatore appunto di questo enorme dipartimento? Lo ricordo, è un osservatorio mondiale, soprattutto quello che lei ha in Croce Rossa Internazionale. Allora, la prima raccomandazione è quella di seguire le raccomandazioni internazionali. Oggi a Ginevra l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un comitato d'emergenza che dovrà definire nelle prossime ore se questa epidemia è un'emergenza di sanità pubblica di livello internazionale. E l'OMS darà delle raccomandazioni precise. Io non mi aspetto nessuna restrizione ai viaggi aerei, possibile una raccomandazione di non viaggiare nella zona di Wuhan, che è l'epicentro di questa epidemia. Questo è quello che anche le autorità cinesi stanno già facendo, certo. Esatto. E quindi al momento non vedo restrizioni per i viaggi. Anche l'uso delle mascherine al momento non è consigliato, non è necessario, perché il virus, per quanto ne sappiamo, si trasmette solo attraverso un contatto, un'esposizione piuttosto prolungata a pazienti che sono infetti. Quindi stiamo a guardare, sono i primi giorni e dobbiamo vedere come questa malattia evolve. Dobbiamo come diciamo noi, rimanere in allerta, ma non senza allarme. In questo momento è un'epidemia, ne abbiamo avuto in passato, ne avremo in futuro. Il mondo sta reagendo abbastanza velocemente a questa epidemia, molto più velocemente che nella SARS del 2003. Abbiamo imparato molte cose, abbiamo più strumenti, quindi ci può stare un po' di ottimismo, ma ci vuole anche molta cautela e molta attenzione da parte non solo delle autorità di sanità pubblica, ma anche dalla parte delle autorità politiche che devono gestire l'epidemia a livello del loro paese e nei rapporti internazionali. E aggiungerei, dottor Capobianco, anche cautela da parte dei media nel raccontare, ripeto, nessun allarmismo da parte nostra, ma è dovere di cronaca raccontare quello che sta accadendo in queste ore. Ma ripeto, quest'oggi vi proporremo un punto di vista leggermente diverso. Intanto il bilancio dei morti è arrivato a 17, e per cui ancora dal punto di vista numerico, se consideriamo i grandi numeri non soltanto della città di provenienza, 11 milioni di abitanti, ma della Cina nel suo complesso, davvero estremamente limitati. L'ultimo punto che volevo toccare con lei, dottor Capobianco, in parte l'ha già anticipato, nel senso che per esempio ieri sottolineavamo come il comportamento cinese sia cambiato tantissimo. 2003-2004 cercarono di insabbiare all'inizio le informazioni, e invece pare che in questo caso massima trasparenza dettata addirittura dal presidente Xi Jinping, ma poi nelle banche dati open access, dove viene scaricata la sequenza genetica del virus, c'è stata un'immediata apertura, insomma una reazione immediata anche da parte degli scienziati cinesi. Questo è confortante. È molto confortante, viene dall'esperienza drammatica della SARS del 2003 e dalla lezione che con i virus non si può mentire. Sono veloci, escono dai confini nazionali, e una volta che sono usciti non si possono raccontare bugie. La risposta politica improntata ad una massima trasparenza è la risposta più corretta. Non sempre abbiamo questo comportamento. Ci sono paesi che nascondono l'epidemia, e questo era stato il caso della Cina in passato, ma abbiamo avuto anche organizzazioni internazionali che hanno nascosto delle epidemie per le paure delle ripercussioni economiche nei confronti di un paese una volta che l'epidemia venisse annunciata. L'OMS ha pagato un durissimo prezzo per l'epidemia di Ebola del 2014 ed è stata in grado poi di reinventarsi e ritornare un'organizzazione molto più leader nel settore, per esempio nel 2018 con l'epidemia di Ebola. Allora nel 2014, prima della dichiarazione, sono stati aspettati mesi e mesi, e questo ha ha portato ad una mortalità molto più alta. Ricordiamo che lì le vittime furono 11.000. Un'allerta precoce avrebbe salvato molte vite. Certo. E questo, secondo me, il mondo ha imparato dalle epidemie recenti. Non c'è dubbio. Grazie mille, Emanuele Capobianco, da Ginevra, direttore Salute e Cura, Federazione Internazionale di Croce Rossa. Grazie mille, dottore. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. In your side be his pleasure, boom she pleasure. (349) 238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. C'è qualcuno che va a toccare anche quella che è stata, secondo l'opinione di alcuni ascoltatori, anche, come dire, l'economia avvelenata, scorte milionarie di farmaci inutili. Nel caso della SARS, per esempio, le storture pure dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricordava giustamente Capobianco. Tutti questi fattori vanno a impattare anche sugli equilibri internazionali. Cercheremo di capirne di più. La prima cosa che però vorrei proporvi si potrebbe riassumere in una domanda, con tutto il rispetto evidentemente per le vite umane, però abbiamo cercato di concentrarsi, forse in maniera un po' cinica, su un altro aspetto. Caro virus, quanto mi costi? L'impatto economico che le epidemie hanno sulla società e sull'economia a livello nazionale e globale può essere devastante. Uno studio del 2018 pubblicato sul Journal of Environmental and Public Health stima che nel 2002-2003 i paesi asiatici hanno subito perdite economiche a causa della diffusione del virus della SARS di circa 12-18 miliardi di dollari. Proprio a seguito dell'epidemia, nel 2003 il PIL cinese è calato dell'1%. Basti pensare che nello stesso periodo, nella città di Dongguan, nella provincia cinese del Guangdong, il più grande polo produttivo manifatturiero cinese, si è registrata una riduzione di un terzo delle spedizioni a causa della riduzione degli ordini da Hong Kong. Quando scoppia un'epidemia, la gente è meno propensa a viaggiare, con conseguenze negative sul settore turistico. Gli scambi commerciali vengono resi più difficoltosi dall'applicazione di protocolli di sicurezza più stringenti e le spese della sanità pubblica lievitano. Anche la spesa sanitaria individuale aumenta vertiginosamente. Si stima che nel secondo semestre del 2003 in Cina il reddito delle famiglie abbia subito una forte riduzione proprio a causa delle spese sostenute in cure e prevenzione. Ma se nel 2002 le conseguenze economiche e sociali della SARS sono state molto gravi, nel 2013, quando è scoppiata l'epidemia di influenza aviaria H7N9, la Cina non si è fatta trovare impreparata. Il governo cinese ha implementato un migliore sistema di gestione delle emergenze sanitarie, più veloce e trasparente, riducendo così i costi e contenendo i danni economici e sociali. Questo è uno dei tanti aspetti che cercheremo di analizzare in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Adesso facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le borse, poi la seconda pagina. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Ci stiamo ponendo una domanda: ma se l'epidemia e il virus, complice le ultime notizie che ci arrivano dalla Cina, ma non solo, fossero delle formidabili leve per ridisegnare gli scenari anche politici internazionali? Stiamo cercando di capire meglio i costi di queste epidemie, ammesso e concesso che questa la diventi, ovviamente speriamo di no. Peraltro vi risegnalo che questa sera vi sarà una riunione straordinaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che molto probabilmente darà risposte anche un po' più certe sulle eventuali precauzioni da prendere, sulle modalità di trasmissione del virus, eccetera. Tutte domande che stanno un po' arrivando anche al 349-238-6666 e alle quali assolutamente non mi prendo la responsabilità di rispondere, perché sono un settore che assolutamente non ci compete. Quest'oggi stiamo piuttosto cercando di raccontare come la recente storia delle epidemie, ma poi andremo anche un po' indietro nel tempo, davvero ridisegnino lo scenario e gli equilibri geopolitici. Adesso vi farò alcuni esempi che abbiamo chiamato gli effetti collaterali delle epidemie. Per esempio, il primo ci riporta in Sierra Leone l'epidemia di Ebola del 2014. Quell'epidemia, fra l'altro, che fece 11.000 morti, lo ricorderete, portò alla chiusura di tantissime scuole per un intero anno scolastico. Ebbene, sapete cosa accadde? Che, secondo le stime delle Nazioni Unite, in un solo anno almeno 18.000 adolescenti sono rimaste incinta in Sierra Leone, un numero incredibilmente alto per un paese che ha poco più di 6 milioni di abitanti. Questo perché la paura dell'epidemia e le contromisure che devono essere prese dalla popolazione portarono a chiudersi in casa e a non girare, e così le persone più vulnerabili, cioè le ragazze, giovani e adolescenti, erano appunto più vulnerabili, e vi furono parecchi casi anche di violenza domestica o da parte, per esempio, dei vicini. Questo è assolutamente un effetto che non ci si aspetta, ma che ha impattato in maniera molto molto invasiva nella società sierraleonese. Per tornare all'economia, oggi la banca d'affari Goldman Sachs ha diffuso una previsione secondo cui il prezzo del petrolio potrebbe crollare di 3 dollari al barile se il coronavirus si rivelasse aggressivo come quello della SARS nel 2003. Due terzi di questo calo sarebbero da imputare semplicemente alla diminuzione del traffico aereo. Sapete che nel caso di epidemie ben più gravi, la prima cosa che si fa, si cerca di chiudere i confini, limitare gli spostamenti per limitare il rischio di contagio. Ebbene, questo si tradurrebbe in minori voli, quindi minor carburante, minor acquisto di petrolio. E poi c'è un aspetto interessantissimo: ci siamo occupati molto spesso di Cina, Hong Kong e Taiwan. Ecco, a questo punto il virus, questo nuovo virus, diventa leva politica internazionale a tutti gli effetti. Cosa è accaduto? È accaduto che oggi la presidentessa appena riconfermata Tsai Ing-wen, presidentessa di Taiwan, ha protestato, sostenendo che Taiwan non è stata invitata al consesso internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Cina ha risposto: ma ci siamo già noi, visto che Taiwan è parte della Cina. Insomma, in buona sostanza, è come se fosse venuto nuovamente a galla quella tensione, quella frizione che c'è tra Pechino e Taiwan, proprio in quanto identità, Stato, nazione, e che complice questa possibile crisi e questa possibile epidemia è riemersa in tutta, il suo caso di dire, virulenza. Ultimissimo passaggio, e stavolta, se dovessimo trovare un titolo, potremmo chiamarlo La finanza malata. Mi affido alla voce di Tim Jones, che è un economista che lavora per la Jubilee Debt Campaign. È un ONG inglese che è famosa per aver lanciato una campagna negli anni, primi anni 2000, per azzerare il debito nei paesi poveri. Sostanzialmente lui ci parlerà degli Ebola Bond. Sono una sorta di assicurazione create dalla Banca Mondiale. Il fine è anche piuttosto nobile, perché nel caso per esempio di Ebola si diceva: per meglio rispondere all'emergenza ci vogliono tanti soldi, da allocare in risorse, in medici, in mezzi, magari lo studio del vaccino. Ecco, ma come vengono raccolti questi soldi? E soprattutto, che cos'erano, e sarebbe meglio dire, gli Ebola Bond? Sentite Tim Jones. The Ebola Bond is a kind of insurance. Gli Ebola Bond sono una sorta di assicurazione per cui investitori privati guadagnano del denaro se non si diffonde un'epidemia di Ebola. Ma se l'epidemia dovesse invece scoppiare, allora in teoria dovrebbero essere loro a dare del denaro per aiutare. Tutto si gioca sul diffondersi dell'epidemia o meno. Ad ogni modo, nel caso dell'Ebola, gli investitori stanno guadagnando un sacco di soldi. Si parla di un 13% di rendita annua. E nonostante ci sia stata un'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, non hanno versato un soldo per supportare la gestione della crisi. La voce di Tim Jones, che ci spiega come questi investitori piuttosto spregiudicati con questo bizzarro strumento finanziario che scommette su una epidemia non abbiano sostanzialmente perso una sola lira, anzi stanno guadagnando. Perché? Beh, sostanzialmente perché nelle clausole, diciamo, contrattuali, nella sottoscrizione di questi bond, c'era un caso specifico, cioè la pandemia di Ebola si doveva diffondere non soltanto in Congo, ma in almeno due paesi vicini, e nei due paesi vicini dovevano morire almeno 20 persone. Suonerà super cinica questa cosa, ma tanto era l'aspetto contrattuale di questo strumento finanziario. Ma chi sono questi investitori? Sentite se Tim Jones è riuscito a capirlo. I don't know who they are, and that's one of the. È una cosa che non sono riuscito a capire bene dalle informazioni che circolano. Ci ho provato, ma non sono riuscito a individuare chi investe in questi prodotti della Banca Mondiale. È uno dei punti poco trasparenti della questione. Si tratta di speculatori del mercato finanziario. In un articolo si parlava di Giappone e Germania, ma si diceva che i giapponesi e i tedeschi sono l'altra parte del deal, ovvero forniscono insieme alla Banca Mondiale il denaro che guadagnano gli speculatori. Insomma, si tratta di denaro che dovrebbe andare alle popolazioni povere che devono fronteggiare una crisi sanitaria. Invece dai giapponesi, dai tedeschi e dalla Banca Mondiale finisce nelle mani degli speculatori. La voce di Tim Jones, economista, uno degli alfieri di quella lunga battaglia per abbattere il debito pubblico dei paesi più poveri, è piuttosto agguerrito contro quel che è stato, secondo lui, a suo dire, uno scandalo della Banca Mondiale, questo strumento finanziario particolarmente spregiudicato e cinico. 349-238-6666 per i vostri messaggi. C'è qualcuno che punta il dito sull'intero mondo farmaceutico, sulle multinazionali delle farmaceutiche, perché dicono che hanno bisogno di soldi e inventano i virus in Cina. Io francamente, come dire, a parte che mi sembra una visione piuttosto ideologica e complottista, ma se avete le prove di queste colossali operazioni di raggiro, io sarò felicissimo di dar voce a un'inchiesta e assolutamente vincere anche tanti premi giornalistici, tanto più che io francamente non sarei per, perché l'ascoltatore dice eliminazione delle multinazionali farmaceutiche, ma poi l'aspirina come la pigliamo? Insomma, mi sembra una posizione francamente ideologica. Però in questa puntata in nessun luogo stiamo cercando di illuminare quelle che sono le storture, quantomeno quelle più visibili rispetto al diffondersi possibile di queste epidemie, e di come queste epidemie costino, impattino sulle società, e come queste epidemie possono addirittura ridisegnare i rapporti di forza tra paesi. Vi ho citato il caso di Taiwan e Cina, quello scandalo secondo Taiwan, la presidente che dice: ma come, noi questa sera non ci siamo lì alla riunione del OMS. Allora, torniamo alla voce di Tim Jones. Vi faccio sentire un altro aspetto, perché, come dire, mettiamo il grandangolo, non c'è soltanto la crisi Ebola, vi sono stati altri casi in cui altri bond relativi a differenti crisi internazionali hanno permesso una speculazione dello stesso tipo. I'm not aware of other similar kinds of bonds, but... Non sono a conoscenza di bond come questo, ma ci sono altri esempi di meccanismi finanziari che permettono di capire come il settore privato trae profitto da quelli che dovrebbero essere piani d'aiuto. C'è stato questo piano assicurativo nei Caraibi che dovrebbe garantire i paesi dell'area dai disastri causati dal cambiamento climatico. Abbiamo calcolato che questo schema assicurativo, creato dalla Banca Mondiale, ha ricevuto 293 milioni di dollari in pagamenti di premi e sovvenzioni al settore pubblico. Ha pagato solo 131 milioni di dollari in risarcimenti, mentre le compagnie di assicurazioni private hanno realizzato un profitto di 105 milioni di dollari. Sarebbe stato meglio mettere risorse pubbliche in un fondo destinato a essere utilizzato in caso di una catastrofe. Ci sarebbero stati molti più soldi a disposizione rispetto alle modalità con cui è stato effettivamente strutturato, in cui una grande quantità di denaro è andata persa, finendo con alimentare i profitti delle assicurazioni. Ancora la voce di Tim Jones. Adesso però vi propongo una piccola pausa. Andiamo a sentire la viabilità italiana e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Nessun luogo è lontano. Oggi potremmo intitolare questa puntata Geopolitica delle epidemie. Proviamo a fare il punto su quelle che sono anche gli effetti più impensati di una possibile, dobbiamo sottolinearlo e continuare a ribadirlo per non creare inutili allarmi. Però è chiaro anche che finché non si inquadrerà bene dal punto di vista clinico questo virus, al momento è decisamente una notizia, così come una notizia il fatto che vi sia stato un caso sospetto a Washington, due cittadini cinesi fermati a San Pietroburgo. Insomma, ci sono sospetti, ma la riunione di quest'oggi, di questa sera, tra poche ore, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe diffondere anche delle linee guida per andare a controllare e capire anche come i cittadini che stanno viaggiando in questo momento devono comportarsi. Un'ascoltatrice, Erta, che insomma sottolinea la sfortuna del momento storico in cui esce questo virus, quando l'Italia si mette su un binario importante, lancia insieme alla Cina, questo ieri, dice, l'anno del turismo cinese, moltiplica i voli diretti in tempo questa volta, e una volta che la facciamo giusta c'è questa sfortuna, così con tono piuttosto dimesso questa nostra ascoltatrice. Poi c'è qualcun altro che punta il dito sulle speculazioni, che dice, questo ascoltatore, non possono che portare disfunzioni sempre e in ogni settore. Oltre evidentemente alle immancabili analisi, francamente mi sembrano un po' strampalate, la diffusione del virus HIV sfuggito da un laboratorio, insomma. E cerchiamo di stare coi piedi per terra sulle poche cose che ancora sappiamo. Sicuramente in un caso come questo la storia ci può insegnare qualche cosa. Buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Guido Alfani, storico, professore di storia economica all'Università Bocconi di Milano. Professor Alfani, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi stiamo cercando di, come dire, anche fare dei viaggi tra passato e presente per cercare di capire che cosa le vecchie epidemie ci hanno insegnato, senza tornare indietro, diciamo, alla peste nera. Quali sono, se possiamo riassumere in alcuni punti, i principali cambiamenti e impatti, non soltanto dal punto di vista del bilancio delle morti evidentemente, ma sulle società, sugli stati che ai loro ospitano queste crisi epidemiche? Allora, se vogliamo prendere un esempio relativamente vicino nel tempo, forse il caso migliore è quello dell'epidemia di Ebola nel 2013-2016, perché è stato un episodio piuttosto serio, che ha causato oltre 28.000 casi e oltre 11.000 morti. Tra l'altro 11.000 morti, ma corrispondono a un tasso di letalità, cioè la percentuale di morti sugli infetti, sui malati, del 40%. E questo è un primo elemento. Sì. Quando ci troviamo di fronte a una infezione che si diffonde e uccide così facilmente, è chiaro che il comportamento degli uomini viene perturbato. Sì. E poi un altro aspetto. Sempre a fronte di una epidemia così seria, il tipo di intervento che deve essere messo in atto per contrastarne la diffusione produce di per sé un'ulteriore perturbazione nel funzionamento della società. Qui parliamo di interventi per contenere l'epidemia entro le aree già infette, quindi quarantena estesa a intere comunità, isolamento degli infetti o anche dei sospetti di infezione rispetto alla popolazione presunta sana e così via. Allora è chiaro che se gli individui si trovano di fronte, gli individui che come dire, vivono in un'area a rischio, si trovano, sì, di fronte a questi interventi, vedono morire i loro vicini e i loro parenti, sì, e magari hanno anche un livello di educazione piuttosto basso, possono facilmente sviluppare diffidenza, in, sì, primo luogo proprio contro chi sta cercando di contenere la diffusione della malattia o sta cercando di portare le cure che sono possibili. E qui, professor Alfani, chiedo scusa, sì, la interrompo, fa proprio riferimento ai casi che anche noi raccontammo nei mesi scorsi di attacchi, per esempio a MSF, ai medici in prima linea nella zona del Kivu, che erano ritenuti, ma è successo a me anche quando raccontai la crisi Ebola dall'altra parte, a Bandaka, nella zona equatoriale, quando passavo con la Jeep mi chiamavano Ebola e gridavano Ebola, Ebola, Ebola, perché erano convinti che l'uomo bianco fosse il portatore, il latore del virus. Esattamente, diciamo che questo è un esempio che è specifico del caso di Ebola, no? Ma è in realtà tipico delle grandi epidemie nella storia dell'umanità. Sì. Adesso, poi torniamo la caccia all'untore, sostanzialmente. All'untore, come nella peste manzoniana, ma, sì, ma ad esempio c'è una piccola epidemia di peste a San Francisco nel 1900-1904, sì, e in quel caso si diffonde la convinzione che sia la comunità cinese la responsabile della diffusione della malattia, o anche durante la spagnola nel 1918-19, che chiaramente si sviluppa principalmente in un contesto di guerra, però ad esempio in Italia si diceva che spie tedesche stessero diffondendo l'infezione di qua dal fronte, mentre in Germania e in Austria dicevano naturalmente erano italiani, francesi o altro. Quindi questo è una costante. Quindi sembra che, chiedo scusa la nuova interruzione, sì, professor Alfani, lo ricordo, professore di storia economica all'Università Bocconi di Milano, da un lato possa, non dico esacerbare i conflitti, ma costituire una formidabile leva anche di propaganda e di narrativa contro un nemico che può essere anche mutevole, diciamo. Ma questo è assolutamente possibile. Chiaramente la situazione di paura, che poi può diventare panico nei casi peggiori, tende a come dire, convogliare sia perché c'è una specifica intenzionalità, sia perché già appunto vi è una certa diffusione di certi pregiudizi, appunto convogliare la preoccupazione, la diffidenza rispetto a gruppi specifici, sì, che possono essere le comunità cinesi a San Francisco all'inizio del Novecento, le comunità cinesi anche in Europa all'epoca dell'epidemia di SARS, o possono essere le comunità ebraiche durante la peste nera del 300, che furono oggetto di terribili persecuzioni in quanto in qualche misura ritenute responsabili del conflitto. Sì. Poi appunto è sempre difficile capire se qualcuno ha giocato su queste paure alimentandole. Vi sono alcuni solidi sospetti, almeno in alcuni casi, ma è un po' un insieme di cose. Proprio per la situazione di generale perturbazione, certo, sociale, ma anche del modo in cui gli individui guardano agli altri individui. Sì, e in qualche modo, professor Alfani, le fa eco un ascoltatore, Mano da Valenza, che dice: Trump è proprio vero che è nato con la camicia, con questa epidemia si potrebbe verificare, si verifica, dice l'ascoltatore, un embargo naturale o almeno un rallentamento per le merci cinesi. Insomma, andando a considerare questa tesi, professore, che accogliamo e facciamo anche nostra, se non andare a esacerbare conflitti o a creare conflitti, sicuramente un momento di perturbazione o di caos generalizzato fa emergere ancora di più le nevralgie già presenti, da ciò il commento dell'ascoltatore. Grazie mille, professor Guido Alfani, lo ricordo, storia economica all'Università Bocconi di Milano. Buona giornata, buon lavoro. A lei, gli ascoltatori, arrivederci. Il professor Alfani ha illuminato quello che poteva essere l'ultimo capitolo, l'ultimo cono d'ombra, se volete, di questa storia. Il resto ce lo consegna la cronaca, perché lo ripeto, l'OMS tra poche ore si riunisce, ne sapremo qualcosa in più e noi naturalmente saremo a disposizione da domani per raccontarvi gli sviluppi di questa storia, oltre a tante tante altre storie, come sempre. Ma alla fine una parola è una sola, quella. I titoli di coda, con i quali ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.